in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti a questa rassegna del primo sabato di luglio dei giornali internazionali, come ormai facciamo da qualche tempo. Abbiamo allargato l'orizzonte rispetto a quella unicamente europea che facevamo prima. Questa settimana inizierei da un articolo apparso su un quotidiano svizzero, Le Temps, che però è in francese, una delle quattro lingue ufficiali della Svizzera. Le altre lo sono perché l'ho scoperto di recente, io pensavo fossero tre, cioè davo per scontato fossero italiano, francese e tedesco. Invece c'è anche lo Schweizerdeutsch, che è quella forma di tedesco un po' difficile da capire in realtà per chi ha sempre parlato solo tedesco. Piccola parentesi, ma io sono un'appassionata della Svizzera. Dicevamo quindi l'articolo, un gioco pericoloso in Siria, e sono un'appassionata della Svizzera, aggiungo, visto che siamo in tema di giornali, anche perché hanno dei quotidiani eccezionali. Oltre a questo c'è per esempio la Neue Zürcher Zeitung, che invece è di Zurigo ed è quindi in tedesco. Sono quotidiani serissimi perché in Svizzera, come in molti altri paesi, esiste una chiara, netta divisione tra i quotidiani generalisti veri e i tabloid, dove vengono, in Germania esiste la Bild, dove vengono date invece notizie più scandalistiche e forse un po' più fake. Ma veniamo a questo articolo che si intitola Un gioco pericoloso in Siria. È molto interessante perché sulla Siria, come forse annoiando gli ascoltatori dico spesso, abbiamo spento i riflettori, ma la guerra continua. E quindi scrive il quotidiano svizzero: la guerra contro il gruppo Stato Islamico, il famoso ISIS, va avanti a pieno regime a Mosul e a Raqqa, sotto bombardamenti che tengono sempre meno conto della vita dei civili. I jihadisti continuano a perdere terreno, ma la prossima guerra sembra pronta a scoppiare. L'esercito siriano, la Russia e l'Iran cercano di provocare gli Stati Uniti, considerati un corpo estraneo che va espulso dalla Siria. Questo editoriale è stato tradotto da Internazionale e, come dico, Internazionale poi proprio nelle sue campagne pubblicitarie ha questa immagine di avere come casa al mondo. Ricordiamoci, io credo ogni tanto, cerchiamo di informarci su internet, non è così difficile, su quello che sta succedendo in Siria, perché poi se andiamo a vedere i protagonisti, tra i protagonisti ci sono anche l'Europa e gli Stati Uniti, quindi le conseguenze prima o poi in qualche modo le avremo anche noi. Sempre su Internazionale, in questo caso un argomento sul quale di notizie ne riceviamo molte, trovate un editoriale apparso sul Guardian che riguarda la Brexit, si intitola Cambiare rotta sulla Brexit. Inizia così questo editoriale: la testardaggine porta a ingannarsi, è anche la caratteristica principale dell'esperienza di Theresa May alla guida del governo, in particolare della sua strategia in favore di una Brexit dura. Prima delle elezioni dell'8 giugno, May aveva dichiarato di essere pronta a tagliare i ponti tra il Regno Unito e l'Unione Europea se Bruxelles non avesse presentato un'offerta soddisfacente. Gli elettori hanno capito che con questo atteggiamento la Premier voleva solo nascondere le sue insicurezze e le hanno negato la maggioranza. E altre considerazioni interessanti in questo editoriale. A proposito di Brexit, vi segnalo da Vox Europe, il sito www.voxeurope.eu, un lungo articolo che è apparso sulla Süddeutsche Zeitung che riguarda proprio la Brexit. Tra l'altro la vignetta scelta da Vox Europe, che oltre a monitorare gli articoli che parlano di questioni europee, monitora anche le vignette che appaiono spesso in Europa sull'Europa. A corredare quindi questo articolo c'è una vignetta di Tom Jansen che vede la signora May, riconoscibile perché ha una cartella molto austera con scritto il suo nome, che entra in una stanza che si chiama Brexit Talks, quindi i negoziati sulla Brexit. Teresa è elegante in uno dei suoi tailleur, però è senza testa, la testa la porta in mano, come dire che o che non ha testa o che la testa non è al suo posto, insomma. Purtroppo osservare come sono andate le cose, certo complici un risultato inaspettato delle elezioni che la stessa Theresa May aveva chiamato anticipatamente per l'8 giugno proprio per avere un mandato più forte. Il mandato più forte non è arrivato e ora i negoziati si sono molto complicati. E così Christian Zaschke scrive sulla Süddeutsche Zeitung, e l'articolo è interamente tradotto su Vox Europe da Andrea Torsello: se non fosse così seria, la situazione nel Regno Unito sarebbe quasi comica. Il paese è governato da un robot parlante soprannominato Maybot, quindi non robot ma Maybot, che in qualche modo riesce a visitare i resti del palazzo andato a fuoco nell'ovest di Londra, in riferimento naturalmente alla tragedia di 2 settimane fa, senza incontrare un singolo sopravvissuto o volontario accorso in aiuto. Sapete che Theresa May è stata molto criticata per questa sua reazione, sì, istituzionale, ma molto poco empatica dopo quella tragedia. E l'articolo continua, e vi consiglio veramente di leggerlo per avere un'idea un po' di come il Regno Unito viene visto dalla Germania, o meglio dal suo corrispondente della Süddeutsche Zeitung nel paese, ma anche perché effettivamente molte cose sono tristemente vere, perché se il voto popolare del 23 giugno, il referendum del 23 giugno 2016 ha sancito la volontà della maggioranza, per quanto esigua, degli elettori del Regno Unito appunto a voler lasciare l'Unione Europea, è anche vero che tutto quello che è venuto dopo è stato a questo punto quasi surreale, o addirittura, secondo la Süddeutsche Zeitung, tristemente comico. Un'altra bella vignetta che trovate sul sito di Vox Europe è invece di un disegnatore olandese che si chiama Joep Bertrams. È un cane con l'aria simpatica, anche se un po' distaccata e addormentata. Sul petto ha scritto Google, quindi sarebbe appunto, personificherebbe il gigante americano della tecnologia. Ha un collare, sapete, di quei collari che vengono messi ai cani quando, e anche ai gatti e probabilmente a tantissimi altri animali, quando hanno una ferita e non devono leccarsela, e quindi quei collari molto fastidiosi. Il collare all'esterno ha chiaramente le stelline è blu e ha le stelline gialle della bandiera dell'Unione Europea, e all'interno si riesce a leggere la cifra 2,42 miliardi, che come sapete è la multa comminata dal commissario europeo alla concorrenza Margrethe Vestager a Google perché avrebbe abusato della posizione dominante sul mercato. Ne avete sicuramente sentito parlare in questi giorni. E secondo molte analisi l'iniziativa potrebbe avere un effetto negativo sulle relazioni tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, che già soprattutto da quando alla Casa Bianca c'è Donald Trump non sono esattamente idilliache. Passiamo a un altro argomento e andiamo in Francia, perché il quotidiano francese Le Croix, che letteralmente vuol dire la croce, scrive che la Chiesa Cattolica, tramite l'arcivescovo di Rennes Pierre Tornella, ha invitato il presidente Emmanuel Macron a non risvegliare le passioni, così il virgolettato, sulla procreazione medicalmente assistita, all'indomani del parere del Comitato Etico Nazionale della Francia favorevole a un'estensione di questo diritto alle coppie lesbiche e alle donne single. In un intervento su un altro quotidiano, Le Monde, questo prelato, che è responsabile delle questioni etiche per la Conferenza Episcopale Francese, ritiene che sarebbe deplorevole per tutti se il Presidente della Repubblica e il Governo prendessero rapidamente delle decisioni che suscitano divisioni. Come vedete, quindi, non è solo in Italia che si discute della possibilità che coppie, chiamiamole non tradizionali, quindi per esempio di due donne omosessuali, oppure naturalmente di due uomini omosessuali, oppure non coppie, cioè donne single, possano non tanto adottare, ma appunto avere poter ricorrere, quindi diventare o genitore unico o genitori dello stesso sesso di un bambino tramite la procreazione medicalmente assistita. Parliamo un po' di noi, ma questa volta visti dalla Spagna. Questa è stata la settimana, o meglio l'annuncio è arrivato domenica sera, ma poi durante tutta la settimana se ne è parlato, del salvataggio orchestrato dal governo italiano e Banca Intesa, del salvataggio Intesa San Paolo, del salvataggio delle due grandi malate, le banche venete, la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che se non ci fosse stato questo salvataggio dell'ultimo minuto, dell'ultimo secondo, lunedì scorso non avrebbero riaperto gli sportelli. In Spagna c'è stata una vera e propria pioggia di critiche a questo salvataggio che, come potete intuire, non in senso lusinghiero, viene definito salvataggio all'italiana, perché è stato fatto con capitali pubblici. Lo saprete sicuramente perché è stato detto molte volte, in realtà in questo momento non sarebbero possibili questi bail-in, cioè questi salvataggi dall'interno con aiuti di Stato di banche, e invece in qualche modo, interpretando la legge, noi in Italia, almeno per quanto sappiamo adesso, perché sapete che ci sono molte, Intesa San Paolo ha posto molte condizioni, in questo momento il salvataggio è stato possibile. Era purtroppo l'ultima, purtroppo perché avevo messo da parte anche tanti altri articoli, era l'ultima segnalazione che riesco a farvi per oggi. Ancora un buon primo sabato di luglio da Giulia Crivelli.